America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. People are still going to be able to make charitable contributions. It just means if you give $100 instead of being able to write off 36 or 39%, you're writing off 28%. Barack Obama insiste, nel suo dialogo con i repubblicani chiede che ci siano delle riforme del codice fiscale e che ci siano dei limiti alle deduzioni anche filantropiche. Ecco, l'America ha appoggiato tutto il suo impianto non solo filantropico ma anche di società civile negli ultimi 70-80 anni, a partire dal vecchio Pierpont Morgan, che è stato uno dei fondatori, dal vecchio Rockefeller, della filantropia moderna, un recupero da quella che fu poi la filantropia rinascimentale, quindi c'è anche un filo diretto. Ecco, il presidente americano insiste e devo dire che in questo in qualche modo è anche appoggiato un po' dai repubblicani, e dunque il problema si pone, è un problema che preoccupa molti, perché noi abbiamo avuto come punto di riferimento l'America proprio per cercare di creare in Italia, dove non esiste, uno snodo filantropico che possa consentire deduzioni fiscali. Ne abbiamo parlato in varie riprese. Come sapete, la filantropia secondo me è fondamentale in un paese moderno. E dunque ho con me ai microfoni di America 24 Giovanna Melandri. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Giovanna Melandri, presidente del MAXI a Roma, presidente della Human Foundation e direi a questo punto esperta di filantropia, o sbaglio? Sì, tentiamo con Human Foundation di portare anche in Italia una nuova cultura della filantropia legata alla finanza sociale. Ecco, e questo è il punto, portare una nuova filantropia. Devo dire, noi abbiamo sempre parlato del modello americano, quindi filantropia che consente deduzioni fiscali e quindi un lavoro di accumulazione per creare questo settore. Sì, anche se anche il modello americano sta cambiando. Certamente è un modello fondato su un favore fiscale straordinario per il filantropo, ma che sta sempre di più spostandosi su quello che viene definito la venture philanthropy o il social impact finance, cioè prodotti finanziari che hanno anche dei rendimenti low profit, che non sono prodotti speculativi naturalmente, e che investono in impresa sociale. Un'impresa sociale che sempre di più, anche secondo questa nuova impostazione, deve poter stare poi sulle sue gambe dal punto di vista economico. Da ex politico, sì, e comunque da filantropo barra operatore della cultura, sì, questo dibattito americano in cui si dice ma insomma magari riduciamo le deduzioni nel momento in cui noi cerchiamo di avvicinarci, ma allora c'è una via di mezzo. In America succede questo, che con la mano destra profit, cioè guadagnare e accumulare delle ricchezze straordinarie, con la mano sinistra una parte di questa grande guadagno, queste grandi ricchezze vengono donate, e naturalmente nel momento in cui vengono donate sono tax exempt, sono favorite dal punto di vista fiscale. E il dibattito in corso in questo paese oggi è quello probabilmente di incorporare di più nell'attività profit il valore della responsabilità sociale d'impresa e ridurre un po' quel vantaggio fiscale quasi totale che oggi c'è nella donazione. Ma il modello italiano non è paragonabile, il modello italiano è lontanissimo. Io credo che il modello saggio è un equilibrio tra questi due aspetti. Io credo che la donazione deve essere sostenuta e deve essere anche, pensiamo all'Italia, quanto potrebbe raccogliere anche per esempio per il suo patrimonio culturale, ma anche nella dimensione sociale, culturale, con un favore fiscale maggiore. Allo stesso tempo però è molto importante incorporare nei valori d'impresa, nei valori giustamente orientati alla produzione di profitto, la compatibilità sociale e la responsabilità sociale d'impresa. Ecco, ma una domanda: come mai in America c'è più questa cultura del give back, del restituire, al di là dell'esenzione fiscale? Perché poi quell'esenzione fiscale è il 50%, nel senso che comunque poi le tasse su quello che si regala per una buona parte si pagano. Ecco, come mai da noi, che dovremmo avere in teoria un paese cattolico, questa cultura della donazione siamo, diciamo, un po' col braccio corto. Forse potremmo dire che c'è una generosità mediana, cioè c'è una generosità, certamente i grandi patrimoni e le grandi ricchezze, soprattutto di quel mondo che oggi è i tecnofilantropi, i Bill Gates, i Jeff Skoll, fondatore di eBay, gli azionisti di Facebook o di Google che stanno costruendo fondazioni. Non solo c'è la generazione, appunto, dei Rockefeller e di questi storici, ma oggi c'è una nuova generazione di tecnofilantropi. Secondo me in Italia c'è molto da fare, per questo nasce la fondazione che Human Foundation, c'è molto da fare per canalizzare e indirizzare queste risorse verso azioni che però abbiano anche un impatto, perché quello che è vero è che qui la donazione è strutturata, ma il desiderio di vedere fino all'ultimo centesimo qual è l'impatto della risorsa che tu stai offrendo è fondamentale. Ecco, l'impatto. Le donazioni americane, lo vediamo da New York, da questi straordinari musei che ci sono, hanno avuto un impatto, per cui New York a un certo momento è stata, per molti lo è ancora, la capitale della cultura. Qualcuno dice no, non lo è più. Ecco, la sua impressione arrivando a New York, lei è stata in giro, ha visto musei, vitalità, no? Sì. Intanto le istituzioni culturali e museali, in particolare americane, vivono su risorse private, su risorse filantropiche, un modello anche questo completamente diverso dal nostro. Io per esempio sono convinta, il mio obiettivo è quello di fare del Maxi sempre di più un museo che sia il luogo di una partnership tra pubblico e privato. Dobbiamo avere più risorse private nel sistema culturale italiano. Rimpiange che il Maxi non sia stato fatto un po' di anni fa, quando la collezione Panza di Piumo si è resa disponibile? La collezione Panza di Piumo è una collezione, sì, proprio a domanda rispondo sì. Il Maxi è stata una mia idea nel 98, quando abbiamo lanciato il concorso internazionale d'architettura che vinse Zaha Hadid. Ci sono voluti molti anni per realizzare questo meraviglioso, splendido edificio, però devo anche dire che in Italia ci sono dei grandi collezionisti, ci sono anche delle grandi collezioni di arte contemporanea. Io penso che uno spazio come il Maxi può essere anche usato per ospitare collezioni non nostre, opere non nostre, non dell'istituzione, essere anche una vetrina per questo collezionismo. Ecco, lei è nata a New York, sì. Poi è tornata a New York in varie fasi della sua vita. Sì. Quindi la vista. Amo questa città. Ecco, ama questa città, la vista in momenti diversi. Un confronto, New York passato oggi, New York rispetto a noi. Dunque, io ho vissuto in questa città a momenti diversi, fine degli anni Ottanta, città straordinariamente dinamica, in crescita. Poi ho visto questa città in momenti molto più bui. Mi ricordo il periodo Giuliani, il periodo in cui gli homeless venivano portati via dai marciapiedi, insomma, in cui c'era anche molta violenza. Oggi la trovo una città straordinariamente interessante per quello che è diventato in termini di piattaforma tecnologica, di crescita di start-up innovative. Quello che è successo in questa città nella moda, nel design, nell'arte, ancora è una delle grandi capitali dell'arte contemporanea. Naturalmente il mondo è globale e l'intelligenza di New York è stata quella di collegarsi sempre di più alle altre grandi capitali cosmopolite di questo tempo, che non sono più solo nell'emisfero nord. Istanbul, Pechino, però io trovo oggi questa una città straordinaria ancora. Una provocazione, allora, si dice, New York è la Big Apple, la grande mela, e Milano è la piccola mela, quindi c'è così un po' una battaglia, si dice l'equivalente di New York è Milano o è Roma? È l'Italia. È Roma, è Milano, è Palermo. Siamo un grande sistema, un grande paese che deve ripartire tutto insieme. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Bene, abbiamo parlato di New York, della sua arte, della sua cultura, i suoi musei, e dunque dedico a New York, anzi a Manhattan, la canzone del giorno dei Cat Power, Manhattan. No one knows who's this woman by.